pensiero. Niente voglio, niente spero, che tenerte sempre a fianco a me. Intatti braccia, non ti vado che sta faccia, non ti stregna forse dietro a me. Mosce t'hanno ne atti sonne, me fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cuore, che tu cuore, ti stavo, oh, prima amore, e un primello demo. Viva tempo sta contenta, io non voglio cade sola, no pensiero me consola, ca tu pure piange solo a me. Ah, più belle tutte belle, più belle di oi vita mia, oi cuore, che tu cuore si stava, o prima amore, e o prima l'ordemo sarai per me.